Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Questa redazione cerca sempre gli altri animali in ogni tipo di dibattito. Cerchiamo animali nelle notizie di attualità, cultura, economia, medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità e tanto altro ancora. Restate all'ascolto della puntata di oggi, che è la numero 678, nella quale parleremo di un cammello preso a pugni in Russia, che si è difeso e vendicato a modo suo, di un maiale condannato a morte in un mattatoio di Hong Kong, che si è ribellato al suo macellaio, di un orso marsicano investito e ucciso in una strada d'Abruzzo, di un gruppo di cinghiali condannati a morte e uccisi solo perché hanno avuto voglia di entrare in un giardino pubblico. Ci sarà spazio anche per la cultura, con la recensione di un libro, e non mancherà una ricetta vegana a tema, a cura del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, al quale è affidato anche il montaggio musicale di questa puntata. Speriamo di avervi incuriositi. Tom marches to the beat of a different drum. Don't say, so you're from China, do you know my friend Hiro? Say, you must be blind not to see the difference. Say, we need to build a wall. Say, I'm a world citizen. I don't believe in borders. È morto Juan Carrito, l'orso simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, ucciso da un'auto, investito intorno alle 18 di lunedì 23 gennaio da una Opel Corsa bianca. L'autista, una donna, si è subito fermata ed è sotto shock. È sbucato all'improvviso, ha detto. Forse si poteva salvare se i soccorsi fossero stati più tempestivi? La domanda rimane aperta. Juan Carrito era nato nella primavera del 2020, non aveva ancora compiuto 3 anni quando è morto, ed era annoverato nella categoria degli orsi confidenti, quelli problematici, perché abituati a familiarizzare con l'uomo al punto da rischiare spesso anche la vita. Amava passeggiare nei pressi della Marsica nelle ore notturne, si introduceva nei pollai, ma anche nelle pasticcerie, beveva alle fontanelle pubbliche, una volta tentò anche di introdursi in un ristorante stellato. Girovagava sulle piste da sci, era incuriosito dalle discese degli sciatori, si avvicinava ai cani, che considerava amici anche se gli abbaiavano contro. Era diventato un simbolo dell'Abruzzo, un mito per chi ama gli animali. Hanno provato a rinchiuderlo in una riserva, ma evase, come fanno tutti i ribelli. È stato investito da un'auto e anche questa morte ha qualcosa di simbolico. Sembra una sconfitta. Juan Carrito ha cercato di vivere accanto a noi. Ha cercato di vincere questa scommessa, di condividere la sua natura ribelle e curiosa con il nostro incomprensibile mondo. Sembrava come se cercasse un compromesso, ma non ci è riuscito perché noi non abbiamo saputo proteggerlo. E così si è spento lentamente, dolorosamente, accanto a un guardrail, come la nostra speranza. Vi ho letto un brano che ho trovato in rete. La commozione ovviamente è grande, sia tra i cittadini privati, sensibili, sia tra le organizzazioni animaliste. E sono tanti anche i personaggi che hanno voluto esprimere cordoglio e rabbia. La scrittrice intellettuale Dacia Maraini ha scritto sulle pagine del Corriere della Sera un articolo molto bello intitolato «Quel mondo che non difendiamo». Leggiamo un passaggio. Addio Juan Carrito, la tua morte crudele ci insegna almeno qualcosa, che stiamo uccidendo il nostro passato e con lui il nostro rapporto straordinario e vivificante con la nostra madre natura. Anche Milo Manara ha fatto una dedica bellissima a Juan Carrito, dedicandogli un disegno che ci ricorda quanto è fondamentale saper convivere con gli animali e la natura che ci circonda. Si vede un orso che in un prato osserva curiosamente una farfalla. Angelo Branduardi, l'autore, il cantante, il musicista, ha scritto «C'era un orso che negli esseri umani voleva trovarci qualcosa di buono». Qualcun altro ha ricordato che non era lui ad attraversare la strada, non era l'orso ad attraversare la strada, ma era la strada ad attraversare il bosco, che è la sua casa. Mario Tozzi ha scritto: «È ora che noi sapiens facciamo un passo indietro, perché gli altri viventi possono fare a meno degli uomini, ma noi invece, noi non possiamo vivere in un mondo di sole specie addomesticate e allevate. La convivenza va garantita anche al di fuori delle aree protette, ricordando che l'orso marsicano non è Balù. Le incomprensioni causate da Disney ce le trasciniamo per decenni». Il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Luciano Sammarone, si è scagliato contro quella che ha definito una mancanza di rispetto per un essere vivente. Che vergogna quei video che sono girati! Perché è stata mostrata impietosamente l'agonia di Juan Carrito? Ma serve una riflessione sull'uso della rete, riguarda i VIP così come riguarda gli animali. Lo hanno visto soffrire e c'è chi dice che piangeva. L'orso è stato investito e si tratta purtroppo di una fatalità perché è passato a 20 metri da un sottopasso, ha detto il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Juan Carrito era uno dei quattro figli di Amarena, il più intraprendente, il più insistente. Spesso di sera arrivava in paese e faceva scorribande, arrampicandosi sugli alberi, correndo per strada. La prima volta l'hanno avvistato a Bisegna, ma si spostava tranquillamente tra Roccaraso e Pescasseroli, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Per evitare le sue incursioni era stato necessario allontanarlo, far sì che tornasse sulle montagne del parco, senza stare là dove invece vivono gli uomini. Lui, un orso di 150 kg che aveva preso molta confidenza. Per lui era più semplice trovare cibo nei pollai, nei cassonetti, nelle pasticcerie, invece che procurarselo tra i boschi come tutti gli altri orsi fanno. Juan Carrito però, appunto, secondo molti doveva tornare a fare l'orso e così dopo varie battute delle guardie del parco impegnate a cercarlo sulle montagne di Roccaraso e 394 turni di controllo è stato catturato e portato nei boschi della Maiella, che lui non conosceva, tra i suoi simili. Intorno al collo gli è stato messo un collare con un GPS, ma dopo pochi mesi lui era di nuovo a Roccaraso. Ha fatto il giro del mondo, la sua foto alla stazione di Roccaraso, una delle tante volte in cui è stato fotografato a passeggio lungo i binari. Era il 3 marzo del 2022. Nel 2021 è stato immortalato mentre giocava con un cane a pochi passi dalla padrona. Ne è uscito uno scatto che ha fatto il giro del web. E poi ancora, il 21 dicembre scorso, cercava cibo a due passi dal ristorante pluristellato dello chef Nico Romito. Anche in questo caso, data la fama dello chef Romito, ha fatto il giro d'Italia il post che lo chef abruzzese ha dedicato a Juan Carrito su Instagram. Lui si è definito entusiasta e onorato per la visita del giovane orso. L'ultimo avvistamento di Juan Carrito risale alla giornata di domenica sui campi da sci della Remogna. E poi lo schianto fatale. Riportiamo un paio di commenti che ci sono sembrati particolarmente poetici e significativi. Lo pensavamo eterno, come le favole, e invece Juan è morto disteso sul gelido asfalto. L'orsetto che rifiutava le regole e voleva vivere libero a contatto con gli umani. L'orsetto che ci ha fatto sognare. Questa redazione saluta Juan Carrito, ma più di tutto gli promette ancora un maggiore impegno per salvaguardare la fragile sopravvivenza di questi preziosi e delicati compagni di viaggio che scatenano in noi così tante forti passioni. Patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti, patti vorremmo restare ancora con Juan Carrito, con la sua storia di orso ribelle e giocoso, però dobbiamo procedere nella nostra cronaca. Adesso andiamo a Roma, dove a Villa Panfili sono stati uccisi 11 cinghiali, 3 mamme in lattazione e 8 cuccioli. Dopo 2 anni dalla strage dei giardini di Cava Aurelia, davanti alle famiglie in lacrime, che è costato lo sdegno internazionale, nulla è stato imparato, anzi l'orrore si è ripetuto, amplificato. Eppure la Sfattoria degli Ultimi, riconosciuta come associazione per la tutela della fauna selvatica in condizioni di criticità, ha proposto la piena collaborazione per prelevare, stabulare e mantenere a vita i cinghiali inurbati di Roma, forte anche della competenza che ha sviluppato in questo campo. Invece, contravvenendo alla legge che prevede l'abbattimento come estrema ratio dopo che tutte le altre soluzioni incruente si sono rivelate inefficaci, si è voluto procedere ad abbattere sul posto 3 mamme e 8 cuccioli, senza prima tentare di dargli la possibilità di sopravvivere. Questi sono, secondo appunto questo comunicato stampa, reati contro la Costituzione, che con la riforma del suo articolo 9 dovrebbe garantire vita e tutela agli animali. Lo dice Paola Samaritani, presidente dell'associazione La Sfattoria degli Ultimi. È inaccettabile la propaganda che diffonde informazioni false, in cui si dice che i cinghiali vengono solo sedati per essere poi trasferiti e non invece uccisi. Aggiungiamo che durante queste operazioni di abbattimento 2 persone sono state denunciate per interruzione di pubblico servizio, 2 attivisti animalisti, e altre 3 persone sono state identificate. Quindi c'è stata una mobilitazione per cercare di fermare questa inutile strage. Ricordiamo ancora, a proposito di selvatici, che i rifugi per animali liberati dalla schiavitù, che sono da sempre in prima linea sia per la protezione degli animali sfruttati negli allevamenti, animali cosiddetti da reddito, ma anche nella difesa degli animali selvatici, questi rifugi hanno organizzato una grande manifestazione che si terrà in piazza Santa Maria Novella a Firenze il prossimo 12 febbraio, a partire dalle ore 14:30, domenica 12 febbraio. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, ma ci fa piacere ricordarlo ancora. How do people find the time to have coffee? I have such a lack of self-discipline, what's wrong with me? And why am I awake before my alarm goes off every day? Is it because I'm a new artist that I should put up with that? Cambiamo completamente tema e anche geograficamente ci spostiamo a Hong Kong. Un macellaio muore in un mattatoio, lo uccide un maiale. Venerdì scorso, il 20 gennaio 2023, a Sheung Shui, un lavoratore del mattatoio più grande di Hong Kong, è stato aggredito a sorpresa da un maiale ed è morto per la ferita a un'arteria. Il macellaio aveva 61 anni e da 24 anni prestava servizio nella struttura, quindi aveva una grande esperienza. Immaginiamo che sia immenso il numero degli animali che ha macellato nella sua vita, eppure è successo qualcosa di imprevedibile. L'uomo è morto ucciso da un maiale che stava cercando di sopprimere. Secondo quanto ricostruito, molto probabilmente l'uomo è stato colto di sorpresa dal suino, che avrebbe ripreso conoscenza dopo essere stato stordito con una pistola elettrica. Nell'aggressione l'uomo avrebbe avuto recisa l'arteria femorale. I colleghi lo hanno ritrovato privo di sensi, con ancora la mannaia in mano e un taglio di 40 cm alla gamba. Questa naturalmente è una notizia per più motivi. Vogliamo sottolineare il fatto che muoiono milioni di animali senza fare notizia, nello stesso luogo, esattamente in quella stessa stanza. un numero imprecisato e inestimabile di maiali è stato ammazzato. Però questa cosa non ha fatto notizia, mentre è morto un uomo e questo fa notizia e siamo qui a parlarne. L'episodio ha subito fatto il giro del web, riaccende i riflettori sul trattamento degli animali da macello nel mondo, quando proprio nella confinante Cina è stato recentemente inaugurato il più grande allevamento di maiali del pianeta, un grattacielo di 26 piani in grado di ospitare circa 520.000 esemplari e di macellarne più di 1.200.000 all'anno. Una catena di smontaggio di corpi animali che, oltre a favorire la diffusione di malattie e l'adozione di pratiche che procurano agli animali sofferenze indicibili, costringe anche molti lavoratori a una vita infernale. Il loro compito è stordire, uccidere, fare a pezzi corpi di viventi che non hanno alcuna intenzione di morire e che combattono per la propria sopravvivenza. Quello che è accaduto racconta proprio questa storia. Quindi chi ancora pensa alla carne come a un alimento come gli altri dovrebbe iniziare a riflettere su cosa possa significare il lavoro in un mattatoio. A questo proposito, nel nostro blog restiamoanimali.it vi consigliamo di cercare una recensione molto interessante digitando nella barra di ricerca La giungla, perché La giungla è il titolo di un libro bellissimo di Upton Sinclair che è stato appunto recensito nel nostro blog da Lorenzo Guadagnucci. Ancora un umano, ancora una volta vittima della sua stessa violenza insensata, così come nel mattatoio il maiale si è ribellato alla violenza sistematica della quale doveva rimanere vittima, così in questo caso invece andiamo in Russia, quando un cammello che è stato colpito con un pugno da un uomo si è ribellato, lo ha morso e calpestato fino a ucciderlo. Si tratta di un cammello a due gobbe che nella Siberia russa, vicino a Omsk, ha morso e calpestato a morte un guardiano in un campo vacanze per bambini in Siberia. L'uomo era un 51enne che aveva colpito con un pugno sul muso l'animale, che veramente in quel momento non stava dando alcun segno di aggressività, quindi non si trattava certo di una difesa. Di fronte a quel gesto violento c'è stata la reazione mortale. Prima morsi a varie parti del corpo e poi il calpestamento. L'uomo è stato portato in ospedale ad Omsk, ma non è stato possibile salvarlo. Non riportano i media informazioni circa il cammello stesso, quindi non si sa se è stato ucciso o che cosa ne sia avvenuto. Ora le autorità stanno indagando se l'animale fosse tenuto illegalmente o se la struttura fosse autorizzata a tenerlo. I cammelli a due gobbe sono animali molto grandi e molto potenti, possono pesare fino a 800 kg. Sebbene li immaginiamo vivere nei deserti, in realtà sono animali dell'Asia centrale e orientale, molto rustici, adatti ad affrontare anche temperature molto estreme. Hanno uno spesso mantello molto ispido che cade nei mesi estivi. Purtroppo sono animali in grave pericolo di estinzione, con una popolazione che sta rapidamente declinando a causa della caccia e della perdita di habitat. Ormai allo stato selvatico ne vivono meno di 1000. Vengono sfruttati soprattutto nell'industria dell'intrattenimento, ci sono le corse di cammelli che stanno diventando un'ossessione in alcune parti della Russia. La loro vita però è deprimente, vivono in situazioni di sfruttamento circense oppure di abbandono. In questo caso era un povero cammello costretto a avere a che fare coi bambini. Anche questa notizia ci restituisce una verità Tenere degli animali in cattività, usarli per lo sfruttamento e l'intrattenimento non è privo di rischi, perché si tratta di viventi che possono in qualunque momento difendersi, ribellarsi e a loro volta offendere. E questo dovrebbe farci riflettere. Chiunque creda di saperne abbastanza dei gatti, sicuramente si sbaglia. Di questi magici animali sappiamo certamente molto, ma non sapremo mai tutto, come è noto a chiunque abbia la fortuna di vivere con qualcuno di loro. E deve essere per questo, per l'impossibilità di capirli fino in fondo, di coglierne l'essenza più profonda, che si scrive tanto di gatti. Sono libri d'ogni genere, dalla memorialistica al romanzo, dalla poesia all'etologia al fumetto. Un libro da poco uscito dall'editore Il Mulino, firmato dall'etologa dell'Università di Parma, Paola Valsecchi, ci aiuta a conoscere meglio questo felino che ci è così familiare, ma che non ha mai perso una sua dimensione selvatica e impenetrabile, per quanto possa passare le sue giornate a ronfare su un divano. Non dire gatto, una storia naturale e no, è il titolo del libro, che ci aiuta a conoscere alcune cose nuove su questo animale, grazie ai molti studi condotti in ogni angolo del mondo. Sì, perché il gatto, ecco il primo elemento da tenere presente, è diffuso pressoché in tutto il globo. Secondo le ultime stime, vivono nel pianeta circa 600 milioni di gatti, dei quali 280 milioni sono gatti di famiglia. In Italia abbiamo circa 7,3 milioni di gatti casalinghi, più 1.300.000 gatti liberi, ma non dobbiamo pensare, di fronte a queste cifre, che l'Italia sia un paese di gattofili senza pari. Non è così. In Germania vivono 14,5 milioni di gatti, in Francia 13,5 milioni, quindi in proporzione alla popolazione umana la densità felina è assai più alta da loro che da noi. E chissà se c'è un motivo. Paola Valsecchi nel suo libro compie un'ampia ricognizione sulle origini dei gatti, sulla loro domesticazione, e ci informa che coi nostri felini di casa condividiamo qualcosa di molto importante, le nostre stesse origini. Africani noi, discendenti in qualche modo dall'Australopiteca Lucy e dei suoi contemporanei, originari dell'Etiopia, libici i gatti attuali, discendenti di Felis libica, come dimostrato da recenti analisi del DNA. Un po' è una sorpresa, perché questi studi dimostrano che i nostri gatti domestici non sono parenti, geneticamente parlando, dei gatti selvatici europei, per quanto oggi si trovino a condividere lo stesso territorio. Tutto ciò deriva evidentemente dalle vicende storiche che hanno associato i primi gatti domestici a comunità umane che li hanno portati con sé in viaggio, diffondendo quindi gatti africani nel continente europeo. Non è quindi un caso se i fenici erano chiamati ladri di gatti dagli antichi egizi, noti estimatori di questi felini. È quindi sulle navi fenice che i primi gatti hanno viaggiato, giungendo sulle varie sponde del Mediterraneo. Fra le tante cose da scoprire nel libro di Valsecchi ci sono i gusti dei gatti, più vari di quanto solitamente pensiamo. È noto a chiunque li frequenti che i gatti sono esigenzi e spesso schizzinosi in fatto di cibo, e ora si è capito che oltre ai quattro gusti canonici, amaro, dolce, acido e salato, loro ne hanno un quinto, che è stato chiamato umami, definito ufficialmente come un gusto sapido, piacevole, che viene dal glutammato e da vari ribonucleidi. Sorprendente anche la varietà dei vocalizzi dei gatti. Valsecchi li riunisce in una tabella e li descrive uno per uno, schedando il tipo e le forme di emissione e il contesto nel quale i vari suoni vengono emessi. Tanto per dare un'idea, menzioniamoli tutti. Fusa, trillo, cinguettio, gorgoglio, miagolio, richiamo sessuale, gemito, due tipi di ululato, ringhio, soffio, sibilo, sputacchio, urlo di dolore, chiacchiericcio, combattito di denti. Dunque i gatti hanno molte cose da dire e anche molti modi per dirle. C'è un'ultima questione che Valsecchi affronta nella parte finale del suo libro, un dilemma legato, come scrive, ai gatti dell'antropocene, e cioè alla loro natura di predatori e alle conseguenze che questa attività di predazione produce sulla fauna selvatica, in particolare gli uccelli, ma non solo. Ci sono stati casi, dall'Australia alla Germania, in cui si è imposto di tenere i gatti chiusi in casa, per certi periodi o anche a tempo indeterminato, al fine di proteggere certe specie selvatiche a rischio di estinzione. È un problema reale e di difficile soluzione. I gatti liberi, anche quelli di casa, nelle ore trascorse all'esterno, fanno i gatti e catturano piccoli animali. Si potrebbe dire che così vuole la natura, ma è anche vero che viviamo tutti in un contesto tutt'altro che naturale, per cui certi problemi devono essere posti e certe precauzioni hanno certamente senso. Del resto, il mondo felino è così ricco di vita e di emozioni che non può che essere in continua evoluzione. Paola Valsecchi, Non dire gatto, editore Il Mulino. No, thank you. No, no, no, no, really, thank you. Thank you so much for taking the time to tell me this. Anche questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà. E in particolare gli abbiamo chiesto di dedicare la ricetta di oggi al cammello che ha reagito alla violenza umana. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La Russia continua a regalarci perle di violenza. Questa volta non è la guerra, ma la brutta fine di un improvvisato pugile ai danni di un disobbediente cammello. Nemmeno i Monty Python dei tempi migliori avrebbero sceneggiato un aneddoto più grottesco, ma la realtà ha superato la fantasia e se non fosse per il tragico finale farebbe pure ridere. La ricetta di oggi la uso come personale commento all'accaduto. Pan per focaccia. Gli ingredienti per una teglia da 26 cm di diametro sono 500 g di farina tipo forte, 350 ml di acqua, 5 g di lievito di birra fresco, un pizzico di zucchero, olio extravergine di oliva, sale fino, rosmarino e sale grosso a piacere. Sciogliete il lievito di birra in 100 ml di acqua tiepida assieme al pizzico di zucchero e lasciate riposare per 5 minuti. Impastate velocemente con 100 g della farina e lasciate riposare in un contenitore coperto con della pellicola nel forno con la sola luce accesa per mezz'ora. Trascorso il tempo necessario, versate la rimanente farina nella ciotola della planetaria e unite 250 ml di acqua e il primo impasto realizzato. Iniziate ad impastare a velocità bassa. Aggiungete il sale e due cucchiai di olio, poco alla volta, fino a quando sarà ben assorbito. Lasciate lavorare la planetaria per 10 minuti, quindi mettete in un contenitore spennellato di olio e coperto con della pellicola. Fate lievitare a temperatura ambiente per 2 ore. Successivamente recuperate l'impasto e stendetelo con le mani in una teglia spennellata di olio extravergine. Coprite la teglia con della pellicola e fate lievitare nuovamente in forno con la sola luce accesa per 1 ora. Nel frattempo emulsionate 2 cucchiai di acqua tiepida con 2 cucchiai di olio extravergine. Recuperate la teglia e delicatamente con le dita formate dei buchi sulla superficie della focaccia. Cospargete la pasta con l'emulsione di acqua e olio e, se lo gradite, condite con sale grosso e aghi di rosmarino. Infornate in modalità ventilata a forno caldo a 200 gradi per 40 minuti. Togliete dal forno e lasciate intiepidire qualche minuto prima di divorarla in maniera famelica.